Sono ormai passati 18 anni da quel tragico luglio del 2001, il G8 a Genova. Chi è nato in quei giorni ora può già votare, però insomma è importante ricordare quei fatti e quel movimento. E forse è un movimento che può insegnarci molto anche nel presente. Forse addirittura siamo all'antitesi di quello che chiedeva quel movimento. Per parlare di questi temi siamo al telefono con Marco Trotta, che in quei giorni, in quegli anni c'era e che saluto. Ciao Marco. Ciao a voi, grazie. Allora Marco, io ti avevo chiamato appunto perché tu sei uno dei protagonisti di quella stagione, diciamo che più o meno tutti noi che abbiamo più o meno questa età, ecco, c'eravamo. Insomma, su Genova si sono dette tante cose, ma più in generale io ti volevo chiedere un commento su quella stagione politica. Condividi l'idea che oggi siamo un po' agli antipodi di quello che voleva il movimento No Global? Sì, siamo un po' agli antipodi e diciamo che si stanno manifestando anche tutti i timori che un po' quel movimento metteva in campo con le sue denunce. Noi in questi 18 anni ci siamo occupati di questo G8 di Genova, soprattutto per le vicende giudiziarie, lo sappiamo, abbiamo parlato della fortissima repressione, delle condanne ai vertici della polizia, però poi abbiamo parlato molto meno dei temi. Beh, insomma, se uno va a riprendersi i materiali, le discussioni, le tesi, gli argomenti, i volantini di quei giorni là, si rende conto che un pezzo consistente delle denunce che venivano fatte in quel momento verso le derive dell'economia mondiale si sono poi concretizzate nella crisi che abbiamo avuto in questi tempi e probabilmente quasi tutte le discussioni tematiche nel nostro paese adesso. Visto che tu appunto hai seguito da dentro quel movimento, una cosa che vorrei insomma venisse restituita anche ad ascoltatrici e ascoltatori più giovani che magari non c'erano, o anche se non sono più giovani, che non hanno vissuto dall'interno quella stagione, è relativa al metodo di questo movimento. Cos'è che lo rendeva diverso da altri, se c'è qualcosa ovviamente che lo rendeva diverso da altri? Beh, intanto quello era un movimento molto composito e molto variegato. Per fare un esempio, do qualche dato: cioè, ma al G8 di Genova, la piattaforma che contestava il G8, aderivano 1015 associazioni italiane. C'erano tutte le associazioni più importanti, l'ARCI, Libera, poi a un certo punto è arrivato anche il sindacato, ma poi ci sono stati i sindacati di base, associazioni ambientaliste, associazioni cattoliche. 1015 è una cosa che di questi tempi non si vende per niente, soprattutto ce n'erano 171 internazionali che venivano da 50 paesi, quindi era davvero un movimento internazionale che si organizzava sostanzialmente. Ovviamente c'era la contestazione, c'era anche la logistica della contestazione, le piazze tematiche, però ricordiamoci che esattamente 18 anni fa, in questi giorni, partiva il forum tematico dove si parlava. Venivano a parlare personalità, c'era Padre Bello, c'erano Vandana Shiva, padre Alex Zanotelli, Noam Chomsky, ma insomma era un movimento che si nutriva di una forte componente tematica. Poi si è organizzato anche in gruppi territoriali, soprattutto dopo il G8 di Genova, però è interessante parlarne da Bologna, perché il Social Forum di Bologna è stata un'anomalia all'interno del panorama italiano. Il Social Forum di Bologna è nato prima perché noi abbiamo avuto un evento un po' prima che è stato il NOX e che ha fatto nascere la piattaforma contro piani NOX, e da lì quello è stato il nucleo che ha fatto nascere il Social Forum di Bologna prima del G8 di Genova. Dopo il G8 di Genova ci sono stati molti social forum che sono nati in giro per il paese, che ovviamente si facevano carico di quello che è successo a Genova, ma poi cercavano di tirar fuori gli argomenti, quelli ambientali, quelli sociali, quelli che si occupavano delle disuguaglianze, e declinare sul territorio. Una delle frasi che si dicevano sempre è pensare globale e agire locale. I social forum facevano quello. Per questo la caratteristica sostanzialmente erano delle riunioni molto orizzontali negli spazi magari occupati, tutti gli spazi occupati o non più occupati, comunque convenzionati, che ci sono adesso a Bologna, in qualche maniera sono stati dentro il social forum in quel momento, e poi venire fuori con magari un qualche iniziativa comune per fare in modo che ci sia, che quella grossa energia che si è creata a Genova, cioè di tutte queste realtà messe insieme, la società civile in movimento, venisse convogliato su obiettivi molto concreti. Grazie al fatto che a Bologna questa caratteristica veniva da prima, era molto forte, c'era una forte componente orizzontale alla pari tra tutti i soggetti, ha fatto in modo che l'epopea del Social Forum Bologna è stata un po' più lunga, probabilmente dato più energia per esempio al movimento della pace, che è arrivato successivamente, ha alimentato le manifestazioni contro la guerra che ci sono state a Bologna e a Roma, dove da Bologna è arrivata una grossa componente. Quindi, ed era un movimento che era così plurale che alla fine non c'era la classica cosa che veniva fatta nella associazione di sinistra, il documento che veniva stilato per mettere insieme tutti quanti, no, ci si cambiava un calendario di appuntamenti dove si cercava di partecipare tutti quanti insieme e si cercava di convergere su due o tre obiettivi di massima. Per esempio, grazie a questa cosa ho fatto una grossa battaglia sul CPT, poi diventato CIE in via Mattei, che ha coinvolto molte realtà importanti a Bologna. Ti faccio ancora una domanda su questa forma organizzativa, no? Quella dei social forum. Che differenza c'è con modelli assembleari simili che ci sono stati in seguito? Penso ai meetup che poi hanno dato vita al Movimento 5 Stelle. Allora, bisogna tener conto che quando nasce il social forum c'era social... I social erano soltanto il forum, non c'erano i social di internet. Internet c'era, e forse c'era la nonna di tutti i social che c'è stata, che era Indymedia. Io ovviamente ho partecipato anche a quell'esperienza lì, cioè non fosse stata Indymedia, la vicenda della Tiax avrebbe avuto tutta un'altra conseguenza. Nell'epoca non c'erano gli strumenti digitali che ci sono adesso, però possiamo dire che quell'idea di orizzontalità sicuramente nasce in quel momento. D'altra parte, chi è che l'ha saputo applicare bene è stato uno come Pablo Iglesias e l'Indignados in Spagna, che esattamente una decina di anni dopo, anche carichi di una crisi sociale che ha creato le condizioni materiali delle persone di dover fare iniziativa comune per risolvere un problema di tutti quanti, la crisi sociale, le proprie delicate, eccetera, ha fatto in modo che l'organizzazione orizzontale fosse la cosa migliore in mancanza di qualsiasi corpo intermedio che riuscisse a rappresentare queste istanze. Perché la verità è che i social forum intervengono in un momento nel quale tutte le altre etichette, i sindacati tradizionali, eccetera, stavano mostrando il limite dell'iniziativa della capacità di essere concreti nella società. E il social forum interviene in quel momento lì. L'equivalente forse potrebbe essere quello che si sta succedendo adesso con il Friday for Future. E da quel punto di vista non poteva esserci una delega, non poteva esserci una convergenza, un meccanismo di elezione, eccetera. Si partecipava nelle assemblee e con questa orizzontalità si cercava di convergere su cose molto concrete. Alcune volte si riusciva anche ad andare dritto al segno. Non si portavano 2,5 milioni di persone a Roma contro la guerra se non ci fosse stata questa orizzontalità che c'è stata grazie ai social forum Italia. In un recente articolo Lorenzo Guadagnucci, che è giornalista, insomma è stato protagonista, vittima anche, no, della violenza a Genova, ha definito questo movimento molto preparato. Sei d'accordo? Ma era un movimento che leggeva molto, aveva molti argomenti, non circolavano molti testi, però quelli che circolavano magari erano anche in biblioteche che non te l'aspettavi. Io mi ricordo che per esempio le biblioteche sull'intermondialità, dove trovavi le discussioni di Chomsky piuttosto che la prima Vandana Shiva, si trovava il Poggeschi di Bologna, che se uno ci pensa adesso potrebbe essere incredibile, ma in realtà era così. Si leggeva molto, si leggeva Vandana Shiva, si leggeva Chomsky, Valdembello, e c'erano le prime discussioni sugli OGM, sulla proprietà intellettuale. Bologna questo discorso aveva una forte base. Era una preparazione che isolava completamente dai classici agenzie del consenso della sinistra istituzionale, ma anche delle associazioni. Era molto vincolata dalle ONG. Adesso le ONG sono vituperate, però le ONG sono quelle che hanno permesso il blocco del PTO nel 1999, che è esattamente il momento nel quale comincia a manifestarsi il movimento Gene Mondiale, che grazie alle organizzazioni non governative in giro per il mondo riuscivano a vedere che stava facendo il fondo monetario internazionale piuttosto che le multinazionali. Esce fuori il libro Onologo di Naomi Klein. Con questa preparazione e questi argomenti si stava disvelando la vera natura della globalizzazione economica, che era globalizzazione economica della finanza, cioè della possibilità di speculare ovunque nel mondo ai danni soprattutto del sud del mondo. E poi venne Van del Bello a Genova per dire: guardate che se questo danno sociale che l'Occidente sta facendo verso il sud del mondo non finisce, queste contraddizioni prima o poi arriveranno da noi. È esattamente quello che è successo con le crisi finanziarie che abbiamo avuto. Sì, movimento che ha saputo appunto prevedere quello che è successo, molte delle cose che sono successe dopo, anche sul versante delle proposte, diciamo, ha anticipato temi che sono stati ripresi dopo, come la Tobin Tax, per intenderci. C'è qualcuno recentemente che l'ha rispolverata, ma era una proposta di quel movimento. Proprio sui contenuti, tu hai citato ovviamente il tema centrale, che è quello della globalizzazione, che in un certo senso oggi viene ripreso, ma in una chiave diversa, quella di globalismo, e viene ripreso da, diciamo, i sovranisti. Che differenze ci sono tra appunto l'idea che c'era allora e quella che c'è oggi? Ma questo tema c'era anche all'epoca, cioè ci fu un dibattito, una discussione anche piuttosto accesa all'interno del movimento sulla questione della Tobin Tax. Un pezzo del movimento, che sostanzialmente quel pezzo di movimento, in quel momento usciva il libro di Tony Nebbi, Impero, no? Che postulava come la fine degli stati-nazione, dei confini, eccetera, e un altro pezzo di movimento che magari girava intorno ad Attac, cioè un pezzo di movimento diceva: la Tobin Tax non ci serve perché è uno strumento degli stati che sono morenti e che quindi è inutile uno strumento di questo tipo, e invece Attac che dicevano: la Tobin Tax ci serve perché almeno dallo Stato riprende un proprio ruolo, e con la tassazione della finanza riesce a bloccarlo lì dove può farlo, dove ha ancora possibilità di farlo dentro i propri confini. Questa è una discussione che c'era anche prima. Poco dopo il movimento si sposta a Ventimiglia, dove ci fu la prima discussione sulla carta europea, sul trattato europeo, dove il movimento non arriva lì chiedendo che si ritornino agli stati sovrani, dicendo che il diritto dei popoli europei è avere una carta che riconoscesse i diritti delle persone, i diritti sociali. Quel movimento fu bloccato prima di arrivare al vertice, perché già all'epoca era chiaro che la costruzione dell'Europa che si stava facendo era una costruzione tutta quanta economica, tutta quanta monetaria e poco sui diritti. Ci hanno dovuto lavorare molto, però la cosa importante che, come dire, lo posso dire anche in polemica, in questo momento magari suggerisce che ci deve essere una svolta sovranista, era un movimento che cercava di interloquire con movimenti sociali negli altri stati. Temo che chi sta facendo un discorso sovranismo in questo momento interloquisca poco con i movimenti sociali degli altri stati, lo sta facendo proprio tutto quanto ai nostri confini. Noi quando abbiamo fatto il primo social forum europeo a Firenze, l'anno successivo a Genova, con tutte le paure che ha comportato, avevamo dalla nostra soltanto Tiziano Terzani che difendeva il movimento, mentre c'era Oriana Fellaci che faceva le sue sparate ad Aldo Zero contro il movimento. Era un movimento che ha portato altri soggetti che venivano in giro per l'Europa, perché l'Europa dei popoli si costruisce in questa maniera, non si costruisce stando dentro i propri confini. È una discussione, secondo me, per certi versi ancora aperta. Quello che c'è è che sicuramente in questo momento spostarsi sul lato dei confini e sul lato del sovranismo significa stare dalla parte dei Salvini, e con tutto quello che significa. Sì, io ricordo uno slogan di quei tempi che era: circolano le merci e i capitali, non circolano le persone, quindi si chiedeva libertà di movimento. Si chiedeva libertà di movimento, lo si faceva interloquendo con i movimenti, ma insomma anche il forum sociale mondiale europeo era un'interlocuzione con gli altri movimenti, quelli del sud del mondo. Ci si organizzava anche per farli arrivare, per poter prendere testimonianze dirette. Insomma, delle cose da questo punto di vista sono state fatte. Quello che è successo molto probabilmente è che una serie di contraddizioni dovute soprattutto al nostro modello economico, che è quello che ha favorito anche molto benessere negli stati, negli strati più bassi della società, è andato completamente in crisi, e adesso nessuno può più assicurare quel modello economico che c'è prima. E qualcuno pensa che questa cosa si possa risolvere facendo in modo che gli ultimi e i penultimi si facciano la guerra tra di loro. Ancora una volta la vecchia lezione di dire che bisogna, come dire, fare le cose insieme, associarsi, organizzarsi insieme per rivendicare i propri diritti, riconoscersi nella richiesta dei propri diritti è ancora l'istanza migliore che si può fare, che però non si può fare stando ognuno ai propri confini. E questa, secondo me, la lezione fondamentale del movimento di Genova e di tutto quello che è venuto dopo. Io, Marco, ti ringrazio per questa bella chiacchierata, buon lavoro e grazie mille. Grazie a voi, e magari ci si vede a Genova anche quest'anno, ci si parlerà di Genova negli anni, nei giorni successivi. Certo. Grazie. Grazie.